ritenevamo veramente fondamentale avere un confronto con voi, con i media, alla luce della decisione presa ieri dal giudice delle indagini preliminari, dal Tribunale di Catania, decisione in merito al sequestro della nave Aquarius, ma evidentemente non soltanto questo. È una decisione che evidentemente ci lascia molto sorpresi e direi anche francamente indignati per il tipo di accuse che vengono rivolte a Medici Senza Frontiere. Vogliamo quindi, attraverso questa conferenza stampa, attraverso questo dialogo con voi, con i media italiani e non solo italiani, raccontarvi, se volete ancora una volta, perché molti di voi questo racconto l'hanno già sentito, il nostro modo di operare, come Medici Senza Frontiere lavora, quali sono le nostre procedure, lo faremo, lo vogliamo fare in totale trasparenza e sinceramente vogliamo anche dirvi un po' come ci sentiamo noi, come si sentono le tante operatrici e i tanti operatori di Medici Senza Frontiere impegnati in questo momento sul terreno. Lasciatemi dire subito che la Procura ha deciso di fare delle indagini, e questo è qualcosa che nessuno di noi mette in discussione, nessuno di noi, tantomeno Medici Senza Frontiere, in quanto istituzione, in quanto organizzazione, si sente al di sopra di qualsivoglia giudizio, tantomeno da parte della magistratura. La nostra storia, peraltro, la nostra storia qui in Italia è fatta da un rapporto continuativo con le istituzioni di questo paese, anche con la magistratura, anche con il Tribunale di Catania. Proattivamente, nel corso degli ultimi 2 anni, abbiamo cercato di stabilire un rapporto, una relazione con quel tribunale, anche perché, lo ricordate bene, all'inizio del 2017 era proprio da quel tribunale che venivano fuori le dichiarazioni che riguardavano, tra le altre, le attività di ricerca e soccorso in mare. Quindi all'indomani di quelle dichiarazioni cercavamo un confronto, un rapporto con il tribunale stesso, proprio per spiegare quello che facevamo e come lo facevamo. Di fatto sono 2 anni, proprio dall'inizio del 2017, sono quasi 2 anni che la nostra attività è scandagliata in ogni dettaglio, e se volete quello che abbiamo vissuto tra ieri e oggi lo interpretiamo soltanto come il passaggio più recente di una storia complessa sinceramente per noi, ma una storia che per l'appunto si è sviluppata da 2 anni a questa parte. Quello che vogliamo però sottolineare di questo passaggio che di oggi parliamo è che l'accusa che ci viene mossa ci pare assolutamente singolare e francamente anche molto sproporzionata. L'esito di questa accusa è che si sta bloccando una nave che di fatto è già stata bloccata con altri mezzi, come sapete molto molto bene. L'Aquarius non è più operativa da diverso tempo a causa della chiusura dei porti, decisione evidentemente politica, a causa della revoca della bandiera, sapete tutte quante le vicende che l'Aquarius ha vissuto in particolare nel corso delle ultime settimane, e anche questa è una decisione, come dire, che è frutto di un intento politico del governo italiano, ma non soltanto del governo italiano, decisioni che sono state chiaramente anche avallate in ambito europeo. Ma soprattutto quello che ci indigna è che un'organizzazione come la nostra, senza falsa modestia, che da 50 anni salva vite in 72 paesi del mondo, oggi siamo presenti in 72 paesi del mondo, un'organizzazione che ha ricevuto il premio Nobel per la pace, oggi venga accusata di aver messo in piedi un'attività, un'organizzazione criminale finalizzata al traffico illecito di rifiuti. Ci sembra quantomeno un'accusa stridente rispetto a quello che siamo, rispetto a quello che abbiamo fatto in anni di attività medico-umanitaria. Anche le modalità con cui questa notizia è stata diffusa ci hanno francamente sproporzionate. Ci è dispiaciuto molto vedere intercettazioni, leggere stralci, ci è dispiaciuto molto che i nostri sostenitori, le persone che ci sostengono, coloro che donano a Medici Senza Frontiere, abbiano appreso in questo modo questa notizia questa mattina. Dato che sono sereni, sono persone che ci conoscono da anni, da decenni, qua in Italia da oltre 20 anni, e quindi sanno bene come lavoriamo e siamo in contatto con loro e stiamo spiegando quello che è il nostro punto di vista. Ci è dispiaciuto in particolare per 7 colleghi di Medici Senza Frontiere, sono 7 tra le decine che si sono avvicendate sulle navi in questi 3 anni, sono circa 150 le persone che hanno lavorato per appunto in progetti di ricerca e soccorso in mare, e questi 7 sono appunto coinvolti direttamente nei fatti di cui stiamo parlando oggi. Qui in questo momento, in questa sala, vedete tantissimi colleghi e colleghe che vestono la nostra maglietta, e sono diversi fra loro, sono persone che hanno lavorato e che alcuni di loro lavorano sul terreno, e in questo modo, come dire, vogliamo anche trasmettere il nostro disagio, la nostra indignazione, e attraverso la loro presenza qua, attraverso la nostra voce, vogliamo veramente rendere comune questo disagio all'opinione pubblica italiana. Per entrare un po' più nel merito di quello di cui stiamo parlando, allora, come sapete siamo in mare dal 2015, quando Medici Senza Frontiere ha iniziato a fare per appunto operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo. In questi 3 anni si sono avvicendati 5 navi, e queste 5 navi hanno portato soccorso a 80.000 persone, quindi la dimensione di uno stadio tra i più grandi, San Siro piena, strapiena. Abbiamo salvato queste persone gestendo circa 200 sbarchi. Ora, chiunque di voi abbia un minimo di dimestichezza con le operazioni di ricerca e soccorso in mare sa che il momento dello sbarco è un momento molto particolare. è uno dei momenti in assoluto più controllati dalle forze dell'ordine. Ogni sbarco salgono immediatamente a bordo le autorità di polizia e le autorità sanitarie, che verificano evidentemente che tutto sia in regola, se ci sono eventuali rischi, per prima di autorizzare lo sbarco. È la ragione per cui, dal momento in cui la nave attracca in porto, attracca al molo, al momento in cui le persone che sono state salvate dal mare materialmente scendono dalla nave, a volte passano diverse ore. Sarebbe quindi assurdo, francamente, immaginare che siamo riusciti a mettere in piedi, abbiamo messo in piedi un sistema, un traffico illegale di rifiuti, quindi è sotto gli occhi delle autorità che per più di 200 volte, per l'appunto, sono salite a bordo delle nostre navi al momento dello sbarco. Diciamo anche che siamo, per l'appunto, in mare da 3 anni, come dicevo prima, un attimo fa, 200 sbarchi, quindi se veramente ci fosse stato un rischio sanitario serio per la salute pubblica qui in Italia, pensiamo, direi, ci auguriamo che ci avrebbero avvertito prima. Magari sarebbero state prese misure immediate, sarebbero stati sequestrati i siti di smaltimento di questi rifiuti, cose che evidentemente non sono mai venute, non sapete bene. Noi lavoriamo oggi in più di 70 paesi e il tema dello smaltimento dei rifiuti è un tema centrale nelle operazioni di Medici Senza Frontiere, analogamente a quello che è il trattamento delle acque, l'acqua potabile, le acque sporche e così via. Questi temi, in operazioni complesse, penso ad esempio alle operazioni che hanno riguardato l'epidemia di Ebola 3 anni fa, ma anche le più recenti epidemie di Ebola, sono esattamente al centro della nostra attenzione, soltanto attraverso una gestione estremamente oculata dei rifiuti, estremamente professionale la gestione delle acque, è stato possibile arginare un'epidemia così terrificante come appunto quella di Ebola, che tra il 2014 e il 2015 ha colpito l'Africa dell'Ovest. Vorrei anche dire che le nostre procedure, le stesse procedure che in questo momento ad esempio sono utilizzate in Bangladesh, dove stiamo assistendo le centinaia di migliaia di persone di Rohingya che sono fuggite dal Myanmar e che sono in campi rifugiati assolutamente fatiscenti. Queste stesse procedure sono state prese più di una volta, come dire, a esempio anche da organizzazioni internazionali come l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo a testimoniare ancora una volta quanto sia centrale questo tema per noi. Ed è quindi evidente che rispetto alle accuse che ci sono state rivolte abbiamo la necessità, innanzitutto noi stessi, di accertare bene la natura delle accuse stesse, e lo stiamo facendo. Abbiamo bisogno di un po' di tempo, è di ieri la decisione del giudice delle indagini preliminari, per capire se c'è qualche cosa anche se di minimamente, soltanto marginalmente, come dire, regolare, e poi se così fosse anche accertare in una catena che chiaramente condivide, che coinvolge diversi attori, dove siano queste responsabilità, perché come dire, alcuni filmati che abbiamo visto oggi ad esempio lasciano dei dubbi da questo punto di vista. C'è un ulteriore aspetto su cui vogliamo porre un attimo la vostra attenzione. L'accusa è che tutto questo sistema sia stato messo in piedi per conseguire un illecito profitto. Ora, questo presunto illecito profitto rappresenta un 1, qualche cosa di quello che Medici Senza Frontiere ha impegnato in 3 anni per fare attività di ricerca e soccorso in mare, cioè meno del 2%. Quindi noi avremmo messo in piedi un sistema così complesso e così palesemente rischioso dal punto di vista reputazionale, da tutti i punti di vista, per conseguire un profitto che, ripeto, rappresenta meno del 2% dell'impegno, delle donazioni che MSF ha ricevuto rispetto alle operazioni in mare. Ora voglio ricordare, lo sapete bene perché ce l'avete sentito dire un mantra da 3 anni a questa parte, che MSF è in mare, è stata in mare per sopperire a un'assenza, e questa assenza era un meccanismo di ricerca e soccorso efficace a livello europeo. Abbiamo chiamato per 3 anni una Mare Nostrum europea che non si è mai verificata, e quindi a causa di questa assenza, a causa dell'assenza di un meccanismo efficace di ricerca e soccorso in mare portato avanti dalle istituzioni e dai governi europei, che noi siamo stati costretti a fare operazioni di ricerca e soccorso mobilitando per l'appunto le risorse di cui abbiamo parlato. Quindi anche qua c'è un elemento di sproporzione, c'è un elemento che direi di irrazionalità, se mettiamo su un piatto della bilancia l'accusa di aver fatto tutto questo per conseguire quel profitto e invece quello che noi abbiamo messo in campo dal punto di vista proprio dell'impegno economico-finanziario per portare avanti quelle attività. E visto che parliamo di fondi, lasciatemi anche dire che, poiché come accennavo all'inizio, è difficile non tirare una linea fra tutti questi eventi, no? Una linea che può essere quella della, chiamiamola pure come criminalizzazione della solidarietà, criminalizzazione di chi fa attività medico-umanitaria, in particolare di chi l'ha fatta in mare. Ecco, questa linea di eventi che hanno riguardato l'ultimo anno e mezzo, gli ultimi 2 anni, ha già prodotto un impatto molto molto forte sulla nostra capacità di raccogliere sostegno e fondi da parte dei donatori privati. Il danno dal punto di vista della reputazione, dal punto di vista della percezione, lo abbiamo già subito, lo sentiamo, quindi abbiamo ancora cicatrici fresche che sulla nostra pelle da questo punto di vista. sicurezza. E questo danno, questo perseverare nell'attacco alle ONG internazionali e nazionali che fanno ricerca e soccorso in mare, è un danno alla fine della storia che si ribalta negativamente sulla nostra capacità di fare azioni medico-umanitarie in 70 paesi, se mi consentite di aiutarli a casa loro, come dice qualcuno. Le persone che abbiamo salvato con l'Aquarius, con la Prudence e con tutte le altre navi non sono persone malate, nella stragrande maggioranza dei casi, sono sopravvissuti al mare. Queste persone hanno ustioni quando arrivano a bordo, hanno ferite, hanno disidratazione, soffrono di disidratazione, soffrono delle conseguenze di un rischio di annegamento. Queste persone sono state curate in un'infermeria che evidentemente non è una struttura ospedaliera. Quelle pochissime persone che avevano patologie realmente gravi innanzitutto per loro stessi, erano immediatamente evacuate con elicotteri e con motovedette. Questo anche a significare un po' quanto, come dire, l'accusa che ci potessero essere, come dire, veicoli di malattie gravi dovuti alla tubercolosi, la meningite, eccetera, presenti eventualmente a bordo, è un'accusa che francamente respingiamo e andremo a argomentare in maniera molto forte, perché persone così malate non sopportano poi altri giorni di presenza su una nave, magari col mare grosso e con tutto quello che hanno già subito. Vorrei anche soffermarmi un attimo sulla questione degli indumenti indossati dai migranti, perché francamente anche qua cerco di portare attraverso la mia voce un sentimento che è un sentimento di tantissimi di noi. È stato francamente doloroso leggere alcune delle parole che abbiamo appunto letto nelle carte che abbiamo ricevuto ieri, leggere fra le righe, ma non soltanto fra le righe, anche detto in maniera molto esplicita, che gli indumenti di per sé indossati da un migrante siano qualche cosa di pericoloso, di dannoso, a nostro avviso è grave. Allora, quegli indumenti in realtà sono pericolosissimi, ma vi spiego perché sono pericolosissimi e penso di poterlo fare anche per esperienza diretta, perché sono stato su una delle due navi di cui parliamo oggi a giugno dell'anno scorso. Alla fine di un giorno di salvataggio, l'ultimo salvataggio che fu fatto, era notte, fu fatto in una barca che era già quasi completamente sotto il pelo dell'acqua. E poiché per un fatto culturale le persone più vulnerabili e più deboli vengono messe al centro della barca, nel momento in cui la barca sta andando a fondo, in barca acqua, essere al centro purtroppo è la parte più pericolosa, perché quell'acqua non è soltanto acqua, è acqua salata di mare che si miscela col carburante. E le persone vulnerabili, donne e bambini, sono quelle i cui vestiti restano intrisi di questa miscela, che è una miscela mortale. E le persone che noi tiravamo su a bordo, come dire, stavano letteralmente, erano vittime di ustioni di primo e secondo grado. E quindi la prima cosa che si faceva era, come dire, sfilare quegli abiti, liberarli da quegli abiti che erano realmente pericolosi. Quindi se c'è un pericolo che va segnalato, che va ricordato, e vorrei portare l'attenzione di nuovo di tutti quanti noi a quelle persone, a quei visi, a quei corpi, il pericolo è per loro. Questo è importante ricordare quando parliamo di pericolo per gli abiti, per chi li indossa. Allora, una parola sul sequestro dell'Aquarius. Ovviamente, non sta a noi a dire se tutto questo è funzionale, il sequestro dell'Aquarius o meno, ma il dato di fatto è che attraverso questa decisione, attraverso questo dispositivo, si sta sequestrando una nave che di fatto non è operativa, non è operativa da settimane, da mesi, come sapete bene, e non è operativa, come dicevamo prima, innanzitutto per i provvedimenti amministrativi che sono stati presi con riguardo alla bandiera, la bandiera di Gibilterra prima, quella di Panama, e sappiamo molto bene appunto qual è la genesi di quei provvedimenti. Voglio rimarcare ancora una volta il fatto che siamo qui per spendere una parola e francamente per ringraziare tutti gli operatori umanitari e le operatrici umanitarie che si sono avvicendati in questi anni con MSF e con tutte le altre ONG che hanno operato in mare, per il lavoro che hanno fatto e per le decine di migliaia di persone che hanno salvato. E chiaramente il nostro pensiero in questo momento va soprattutto appunto ai nostri 7 colleghi che sono stati purtroppo implicati e si trovano oggi implicati in questa vicenda. Vogliamo anche ringraziare per tutto il sostegno che abbiamo ricevuto in queste ore i nostri sostenitori. Vogliamo ringraziare le tantissime voci della società civile, ricordando che è un sostegno che, nonostante i mesi durissimi che abbiamo trascorso nel corso di quest'ultimo anno e mezzo, è un sostegno che abbiamo sempre sentito, non è mai venuto meno. Nonostante tutte le polemiche, nonostante gli attacchi, la delegittimazione della nostra attività medico-umanitaria, la delegittimazione della solidarietà, perché poi alla fine della storia di questo si tratta. Vi dico da subito che né ora né mai ci interessa entrare in polemiche di natura politica, partitica, preelettorale. Sono cose che veramente non ci riguardano. Noi vogliamo continuare a fare il nostro lavoro. Oggi, come sapete bene, gli arrivi sono drasticamente ridotti, ma le persone che continuano a rischiare la vita in mare sono percentualmente purtroppo molte di più che in passato. E sappiamo molto bene che oltre quelle che rischiano la vita in mare ci sono quelle che rischiano la vita in Libia. Oggi non ci sono più navi per salvare queste persone. Chi sopravvive è quasi sempre intercettato e riportato nell'incubo della detenzione dei centri in Libia. E quindi infine è soprattutto a loro, a queste persone, che va il nostro pensiero e il nostro impegno.